su qua. C'è un dolore forte al ginocchio. Aiaiaia, ti ho preso forte dolore al ginocchio. Invece è piegato al contrario. Capito, no? Come piegare normalmente, ma mi si è girato. Sto cercando di tenerlo fermo, un po' piegato. Mi è venuto un dolore forte. Ed era da molto perché non mi veniva così forte. Ogni tanto succedono più troppo queste cose qua. Dice se faccio lo sforzo. Oggi ho cambiato il coso del water. Il coperchio del water e mi sono inchinato. E quello lì mi ha fottito. Bastava a metterti bene. E prima mi sono messo un ginocchio solo. E l'altro l'ho lasciato. Ma è come la pungi ti fa dei mali. Che non è più come prima, Sì, arritona come prima. Pagando, però. Già. Purtroppo. Adesso i dolori ci sono. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole. Poi deve fare movimento anche. Ci mette un po' di tempo a guarire. Purtroppo queste cose sono così. Il movimento già lo faccio bene tutto quanto, muovo benissimo il ginocchio e tutto quanto, solo che ci sono dei momenti che secondo le posizioni che fa, secondo gli sforzi che fa, ti fa male. Gamba, non lo posso immaginare già. Quanto sta arrivando già? Eh? Come ti arrivo, bene? Bene, assurdo. Come la riconosci questa? Questa radio? Sì, l'MV5 col deve essere col COS, mi è capito, col presidente grande. No, questo è l'M95. Ecco. No, già lo sto facendo scaldare, lo sto facendo andare, dai. Esce bene con la 95. Mi ha cambiato la capsula, però vero. No, già lo sai, questo qua l'ha provato. E lo so, lui ha chiamato la capsula, mi pare che è una resistenza. Cappa, questa la bocca non vuole appoggiarlo. Questo io lo tengo sopra il tavolo. E come il microfono al tavolo? Sì, non so se il tuo funzioni così. Ah, le MV5. No, le 93. No, anche se lo metto lontano si sente. E così funzionano questi, quando sono modificati, vanno così. La mia non è modificata, comunque devo mettere la capsula dell'MV, delle, come si chiama? DM1000. Oh, è comodo, perché lo tieni qui sopra il tavolo il modulo. Macchina è più comodo, lo tieni sul sedile, moduli e la polizia non ti può di nulla. Cappa, va lo stesso. Vabbè, c'è il problema. Mi senti ferma, non lo muori sul sedile, il microfono dice come è sul sedile, beh, perché la polizia io. No, già va bene se sul sedile. Stai facendo tutto bene, dai. Guarda che scopro la moto e sto partendo. La moto? Perché la moto? A farla girare un po'. Al giretto. E a farla girare tu, perché sta sempre ferma, mi fa male. Ah, l'ho fatta girare anche l'altro giorno, ma un girettino così. Fai bene. Almeno un po' gira. Vuole movimentarti, se no guai. Se non movimenti la situazione. Devo pagare anche il bollo adesso che ci fece. Il bollo della moto, il bollo della macchina. Che? non c'è. Com'è? Capito mi hai? Ma capito? Sì, per pa... E io? Io non la peste, cosa c'è? Lo spezzone siccome lui se la avvicina, cioè lo muove, e quindi da un po' di difetto in bacino lo tengo in una certa maniera e funziona sempre bene, hai capito? Ah, e tu sei come tenerlo magari? Chiaro, io già lo so come bisogna fare. Beh, ho detto, va, adesso faccio andare un po' questo, facciamo scaldare tutti i condensatorini. Avanti Giulio. Chi sei, Giuseppe? Chi sei, Giulio? No Giuseppe, non sono Giulio, sono Gianni da Pieruno, mi hai sentito? Scusami, io confondo con lui. E non c'è problema, Gava Gava, Giulio è di vicino a te forse? Io sono Montebasso. Sì, Montebasso. Che io sono nato a Montebasso. Dove? Sacro Cuore. Io sono del Sacro Cuore. Io ho vissuto sino a 29 anni, 30 anni da Sacro Cuore. 29-30 anni così. E poi mi sono sposato. Tranquillo. Sì, diciamo che non ho fatto tutto ancora un po'. di fortuna a Pietrolato, però fa. E sul tono di quel paio di avanti. Bene, bene. Avanti, Pierpa. Ogni volta che parli mi devi avvisare. Ma perché? Cosa succede? Non è amico, io non lo sento, lontano, è grande. Ale sacre cap. Ma sacro cuore. E come mai io non lo sento? Ehi, sarà dalla barra mobile, vero? Cioè, dalla barra mobile sì. Ma la vuoi mettere sul tetto? Lì sono alcuni ripetitori, ho visto, che hanno piazzato. No, ma io stavo modulando stamattina con degli amici. Ma ho visto su internet una, adesso non mi ricordo, non è mai in fondo, però ho detto che una bella da qualcosa. Niente, non avevo che funziona abbastanza bene, ho bisogno di prendere quella. Ma non mai la resa che hanno le antenne dal tetto, che antenne hai comunque? Vabbè, dimmi che antenna è, poi anche Piarossi e poi anche, guarda che se concorre una buona zona, se la metti sul tetto, spari bene. Mi faccio attenzione, perché ho parlato con un amico, adesso non mi ricordo chi fosse, stamattina, e gli ha detto che lui se l'aveva tagliata, infatti gli ha consigliato di metterla sul tetto. E l'antenna del tetto le metti? Te ne dimentichi che esistono 25, 30 anni ti durano, quindi vedi bene che, e poi la resa è diversa, la resa è molto molto diversa, antenne CB che si mettono sul tetto sono abbastanza robuste e alte anche. Yeah. stava barcollando. E allora, abbiamo detto all'imbecile. Poi ce l'abbiamo preso, ci andavo con i cattoli del divano con lui. Aspetta un attimino, devo dire una cosa a Marco. Aspetta. Devo vedere l'animale questo, io a Giuseppe non lo sento per niente, perché è troppo basso, non so se lui sente a me. Giuseppe, da dove sta motorando Giuseppe? No, non lo sento già. Da cosa che ho cuore. No, non lo sento, non lo sento. Ma gatta, io sono lo sento, gabbo, gabbo. E vabbè, perché io sono zona grande musudì, ma di manna. Ma te la ti ascolto molto chiaro. Sto parlando, aspetta. Vabbè, là, dimmi. Parlando da casa con l'antennino della BM, con la magnetica. È strano, è vicino bene. Io sono vicino a Sacro Cuore, come mai non mi arriva neanche nello Santiago di uno? Aspetta una tira, mi è venuto un dubbio per te. Senti Giuseppe, la magnetica l'hai messa attaccata a qualche posto di ferro o no? Tipo nel ferro da stendere, lì deve fare massa la base magnetica, capito? Mi è venuto il dubbio da fuori ragione. Sì, un attimo, mi sono trovato un punto dove poteva essere. Perché se non ha la massa non esci, capito? Per basta, lo scendo senza massa. Va bene, le finali sono a posto. E che malattia sta usando? Oh, sono, non l'ho chiesto. Ho detto che l'ha appoggiata al coso delle persiane, buona. Ahia. Vabbè, deve fare massa bene quell'antenna. Sicuramente lui ha di quelle persiane che hanno, per pa, non so se mi spiego, quelle che hanno il binario che scorre, no? E l'avrò appoggiata su quel binario lì. Ma la deve mettere più all'esterno, cercare di mettere più all'esterno. Cercare un punto già di massa. Tanto se la vuole piazzare a casa adesso, si voleva mettere una bella antenna, però le hanno considerato si può mettere anche quella al balcone, quindi si monisce al balcone, è tutto più facile. E capa, ma è bisogna vedere che piano abita per quello al balcone. Infatti, è quello, è una bella zona di Sacro Cuore, poi spara bene da tutte le parti, io perlomeno, però ce l'avevo sul tetto, è la verità. Io da casa di mamma, Salghero, arrivavo 9-5, ero magari con la Grand Prix, fatti un conto. Se, comunque, anche se si mette una Storm 27, dovrebbe uscire bene lo stesso. Capa, invece per lo stesso, però... Non la metto né appoggiata al muro, la metto un po' distante, con un palo che almeno un metro. Dice che la vuole mettere sul tetto. No, sul tetto c'è la possibilità. Così mi ha parlato stamattina che la vuole montare su. A bisogno mio per fare un traliccio in chibi, se ho capito bene il palazzo, c'era un traliccio della Telecom, se si applica su quel traliccio tira buoni punta e via. La fede non c'è, cari, non si può pulire un traliccio. E allora uso anche perché se è Telecom ti telefonino cose, uso che non disturbi. E beh, come fa a saperlo prima del tempo? Bisogna probabilmente accertarsi prima, perché chi si non è Marieccari? Non so, pagano fior di quattrini al condominio per avere quel traliccio lì, li pagano mensilmente, li date proprio un mensile. Ma il fatto è che quelli ci mettono poco anche, non sono come noi, no, quelli controlli che c'erano a vedersi pure. Loro li fanno ogni tanto poi. Adesso non mi ricordo se in quel tettorio o nel palazzo di dietro, non me lo ricordo bene, perché da Sacro Cuore si vede il traliccio. Ed è quello lì, il palazzo dove si vede è quello, però non so se sia il palazzo dietro o il suo. Del palazzo suo proprio? Questo non lo so, ma non me lo ricordo, però da Sacro Cuore si vede. Se tu ti metti dalla chiesa, da Sacro Cuore, e guardi, di fronte al, non proprio di fronte alla chiesa, girato verso destra, nel palazzo che c'è, proprio l'ultimo palazzo che c'è verso destra, di fronte alla chiesa, lì risulta lui. Ecco, va bene, lui non so se c'è il palizzo sul petto. Te lo chiediamo, Giuseppe, aspetta, ma è il palazzo dove c'è il traliccio, il tuo è oppure dietro il traliccio, adesso non mi ricordo, è dietro, allora, K, e allora già va bene, tu a che piano sei? Aspetta, che piano sei tu? A seconda, e allora l'antenna lì non va bene, l'antenna alla finestra non va bene, a secondo piano, è troppo basso. C'è tutti, a secondo cuore c'è la chiesa, ci sono tutti i palazzi attorno, un casino. Dovresti metterla sul tetto, e se la metti sul tetto io ti consiglio, invece di mettere l'antenna di cavo, devi mettere direttamente una mantova, te ne dimentichi dopo di toccarla, però deve essere fatto bene il lavoro. Se tu metti la mantova la devi tutta bella vulcanizzare con vulcanizzante, mettere i tiranti, fatto per bene il lavoro. Se tu sei dove piazza della Meridiana, guarda, vai lì e ti guarda la mia antenna, guarda di fronte e ti guarda la mia antenna com'è. Lo sai dove è piazza della Meridiana? E via Moris, lo sai dove? No. La fine è via Valdetta. Dove c'è l'edicola, ce l'ha presente. Sali su con la salita. Svolti a destra. E il primo porto ne abito io, quella piazza che c'è davanti, che si vede, quella lì è piazza della Meridiana, si fermi con la macchina lì e poi sali mezzo metro a piedi e vedi la mia antenna, e vedi com'è piazzata, per farti un'idea. Che palazzi grigi sono. Tu guarda lì, ti fermi la macchina, sali verso la piazza della Meridiana, ti giri e vedi l'antenna mia. E vedi com'è piazzata con tutti i tiranti, io sono anche un po' esagerato, ne ho messo 9. Addirittura però quando c'è stata la tromba d'aria, a me l'antenna non mi è bastata. Io prendo molti venti, la zona è buona, ma la mia zona prende molti venti. Specialmente al maestrale, perché sono di fronte al mare, quindi tutto il maestrale batte lì. E se non c'hai l'antenna ben ancorata, fa brutta fine. Va. In settimana sono libero anche io, se tu vuoi non c'è problema, se vuoi una mano, vuoi un consiglio, vuoi una cosa, ti consiglio io tutto. Non c'è problema, infatti fammi sapere se usciamo insieme, io ti dico dove andare a prendere l'antenna, dove prendere la crociera, dove prendere il cavo per i tiranti, ti dico tutto. Ma che c'è spioventa? Vabbè, ma si può far partire da dentro le tegole. Basta bucare la tegola, far entrare dentro, risulterà sicuramente un sottotetto lì, no? Incementarla all'interno e praticamente farla uscire fuori il tubo dal tetto. Dopo una volta che praticamente hai finito, metti i cementi tutto quanto, metti l'isolante attorno e poi li metti i pezzi di tegola che ci vogliono sopra e non succede niente, guarda, con l'isolante non c'è da, io guardo anche siliconato, fatti un conto, e anche con la guaina liquida va bene, l'aveva messa mi pare Savrilio quella lì e non, a quanto pare dice che va bene. E diciamo che il tetto con le tegole è sempre un po' più un problema, è meglio la terrazza secondo me, perché ci puoi camminare bene, ci puoi lavorare bene, ma comunque già si fa anche dire, è stato fatto già da altre parti, non è che è quello il problema, avanti Fierpa. Praticamente la base magnetica, capito, che va sul ferro, deve esserci una cosa piatta, di modo che rispecchi, va bene anche su un termosifone per intendersi, va dentro casa, però su un frigorifero, io l'ho anche usata così da casa, dico la verità, messa sul frigorifero, sul termosifone che fa un piano di massa che è micidiale il termosifone, però non lo so se con quell'antenna lì renda perché è troppo vicino al muro, capito? La miglior cosa è sulla porta finestra. Senti, per qua. No, negativo, negativo. Comunque, Giuseppe, se mi ascolti, io in questo momento, adesso, se mi ascolti, io sto uscendo con la Stormo 27, sul balcone. Sì, capo. Ah? Puoi fare anche così. Ma lo puoi fare anche con altre antenne, quello lì, con la Grand Prix, con altre antenne. Basta che limiti due staffe laterali che acchiappino sia il tubo del, che il trucco con quello dell'antenna. Però sempre il peso lascia desiderare. Quindi cosa ti consiglierei? Ti consiglierei di fare una cosa fatta bene, se boh. Io, secondo me, una volta che lo fai, che vai sul tetto, vedi, c'è un'antenna come si deve, buonanotte. E poi per fare una cosa che non ti interessa arrivare chissà dove, parlare solo con la città, però ci sono persone che parlano da muro, se dal velo, se non ce l'hai sul tetto, non è che arrivi bene. Ah, ieri, ma non era per Fugas, nemmeno per lui. Guarda, noi siamo andati, eravamo in macchina, eravamo in una zona che si vedeva tutto quanto, prima hai detto che era Perfuga, poi detto che era Sorso, ma non lo so, ma credo, secondo me era tutta l'altra parte dei paesi, verso Bulos, Cargè, che Provaghe, quella zona. Sì, sì, sì. No, ma non era Capri 2, Capri 2 lo conosciamo bene, è un amico, non c'è problema, non era lui. Comunque, se ti viene in mente di comprare, di fare, devi decidere tu se vuoi un'antenna che, insomma, ti permetta di arrivare anche oltre certi limiti. Allora ti devi comprare un'antenna grande, prendere un palo grosso, fare più spesa naturalmente, perché se già prendi una mantova costa 120, mettiamo. Poi prendi il palo e spendi altri soldi per il palo, poi devi prendere i tiranti, poi devi prendere le crociere, poi devi prendere un sacco di roba, il filo, il cavo, insomma, già ti viene. Invece mettendoci una Stone non devi mettere manco i tiranti perché è leggera come antenna, non ha bisogno manco di tiranti. Che apparecchio c'hai tu? Che apparato? Tu sei. E dove la stai mettendo la barra pesante? Dove la metteva Costanzo? Nei parcheggi? Ah, se lo ricordi tu dove la metteva il padre di Ignazio? Le barre pesanti, tu l'hai conosciuto quando aveva le barre pesanti il padre di Ignazio? C'aveva due o tre assi, c'aveva uno giallo e uno, io me lo ricordo bene. E Costanzo stava tutto il giorno appresso a questi mezzi. Di domenica lo prendeva, ingrassava, li puliva, li faceva, tenevano questi mesi, guarda, come gioielli. Loro facevano i viaggi per il consorzio agrario, capito? Portavano mangimi. Kappa. E anche Costanzo si sopporta le cisterne di gasolio, lavorava, aspetta, lavorava, da. Quello che c'ha di lui, no, non è Salaris, sana mi pare che si chiama, e poi, non lo so, l'avevano licenziato perché c'era poco lavoro e adesso non lo so cosa sta facendo, però gli è sempre piaciuto fare l'autista, se da ragazzino guidava il camion senza patente, si faceva il giro del Sacro Cuore senza patente. Poi ti sto dicendo che stava tutta la domenica attaccato qua, io lo so perché io abitavo lì, tutta la domenica io stavo parlando con lui faceva e parlavamo, intanto lui faceva, ingrassava, puliva con la nafta, qua stava sempre controllando olio, controllando tutto, sto preparando per il lunedì, capito? Allora domenica era sempre in tutta, non lo vedevi mai vestito bene, sempre in tutta. Prendeva e faceva. Poi la sera magari se finiva prima si cambiava, uscivamo e cose, però la domenica dedicava tutta il camion, tutti e due, poi li faceva, smontava tutto, puliva la cuccetta, li cambiava le lenzuola, faceva, guarda, stava sempre facendo. E poi ci aveva venduto, tutti e due i mesi, mi pare, e aveva comprato un Mercedes Costanzo, solo che non ve l'ha fatta pagare, della sera, ha dovuto andarsene in proprio. Capo. Quello c'era bello, un bel cane, un quattrasse mi pare che fosse. Vabbè, che passa per Paolo, avanti per aspetta, vedere se mi senti così. Oh, adesso ti sento, di Santiago come hai, ti sento poco poco del radio, questo era Ringo. Santiago, non ce n'è, poco poco del radio e basta, e va bene, dai, con questo già ti sento un pochino, con poi già lo sento, beh, ti sto arrivando io lì lo stesso, mi hai sentito? Sì, capo, dai, anch'io appena ti sento del radio adesso, capo, va bene, vedi un po' tu, in questa situazione io non riesco a malapena adesso. Ah, no, adesso no, poco fa ero con la Storm. Ma ne vedete? No, un po' strano già che esca così in massa anche quell'antenna, eh. Le sta facendo fare massa male, io ho già fatto male il piede del coso, il piede del capo. Dani. Ma che sta uscendo soltanto col culo caldo? Dani. Non è che non hai fatto bene il piede, no? Tu non hai altro le possibilità, ma per dire Giuseppe penso che la facciamo mettere sul tetto. Giuseppe ci ha parlato per metterla sul tetto. Non ho capito, scusa. Ho detto, hai già parlato per metterla sul tetto. Io ho telefonato al capo condominio perché ci abbiamo esterno, a me mi aveva detto che non mi dava assolutamente la chiave del tetto per mettere l'antenna. Ah no, allora mi sono scaricato tutte le leggi da internet e le ho sbattute a faccia. A voglia che mi ha dato, ha già. Scusa, dimmi una cosa, ma il palo come di quelli lì d'acqua oppure normale di quelli che vengono per le antenne di televisore? E pare che sia di quelli per antenne di televisione. E quelli durano poco, si marciscono. Sarebbe bene mettere un tubo d'acqua. Ma e allora cosa ci vuole? Il problema di l'antenna del televisore lì ci sta. Perché quella lì è più duratura, come così non ci devi più salire, non devi stare sempre antenne. Ricordati sempre, quando piatti l'antenna, di mettere vulcanizzante in tutte le parti critiche, per dire nell'astro non c'è bisogno, però dovresti mettere almeno dove c'è il piede, l'attacco del piede, così è per qua. Ce n'è lì, nei palazzi più avanti ci sono i terrazzi semi, con la forma semiluna così, no? Arrotondati, invece che ce n'è qua, ci sono arrotondati. No, lì non ce n'è Pierpa, non ce n'è. L'unico punto dove può attaccare appunto la cosa della persiana. Ma la stona se la mette sul palazzo, Pierpa è meglio, arriva meglio. Poi quella è una zona centrale, è bella amico, come zona, prende un bene, qua io ti dicevo per la casa di mamma, lui è al limite della piazza dell'altra parte, io lui è tutto sulla destra, io ero tutto sulla sinistra, però penso che la sera sia uguale. Ce l'ha già, il tubo d'acqua ce l'ha dentro casa. Lui non tagliare quello della conduzione dell'acqua. No, tranquillo, anche il caso di acqua c'è un bene che sei. No, scherzavo. Vabbè, secondo me è meglio mettermi quello, in quanto come durata ne ha molto di più quello lì. L'altro, quello delle antenne, si fa già subito, si fa subito rugginoso, tutto quanto rugginoso, invece quello d'acqua è diverso, non si arrugginisce, dura moltissimo tempo, quindi per me se vuoi un consiglio fai uno sforzo in più, mi metti l'antenna al televisore, te lo orienti bene e poi li metti la storia sopra. Le salvature di piede le sai fare? Al limite ci chiama e diamo una mano quando devi piazzarla. io penso che per loro sia d'accordo. C'è la casa, c'è dentro casa, me l'ha detto. Per Paolo è esperto della storm perché c'era anche lui, quindi quando devi piazzarla ce lo fai sapere. Sul tetto non ci saliamo né io né per Paolo perché siamo tutti e due ben piazzati. E lì ci sono tegole che durano da... Allora, quei palazzi ci hanno minimo 60 anni, anche di più. Come fa quello del televisore, fa quelli, però quello del televisore è anche un po' diverso, non è che sia uguale uguale, ma dovrebbero saperlo fare, dai. Allora, sul tetto, naturalmente tu da giù ti fai il PL che devi attaccare all'antenna, quello è normale, poi fai la calata, la fai scendere e attacchi l'altro PL. Mi puoi attaccare anche tutti e due volendo, non c'è problema, ma se non devi far passare il filo da qualche parte, farlo magari per non farlo ballare, e mi raccomando, nella calata cerca di calarlo sempre vicino al fluviale, di modo che non fascetti il filo, poi piano per piano ti metti delle fascette di quelle grandi, te lo fascetti di modo che non stia a sbattere col vento o qualcosa, se no si consuma. Comunque è una cosa più facile, è facile da fare, dai, ci vuole più a dirlo che a farlo. Ma non è difficile, non ho detto che è difficile, per chi lo sa fare non è difficile, però il PL fatto male può portare problemi, non fa bene massa, ti fa uscire a tratti, tutte queste storie qua. Se il PL è fatto bene non deve darti nessun problema, deve essere avvitata la massa, deve toccare bene, non deve toccare il polo caldo, di modo che a volte ti scappa anche un filetto, tocca il polo caldo e non si ricomprende più nulla, massa tutta andare e via dicendo. Vabbè, riprendi Pino Antonio per Paola, riprendete. Scusi, l'ho capito, non so se è il 78 o il 48, che cosa c'hai? Che baracchino hai, hai detto? Di che marca è? Alan 48 Plus mi hai detto. Ah, è 100. Mi va vivo io per qua, il suo minorito. Secondo il baracchino che hai arrivi meglio, capito? Quel baracchino lì non è che dia molta potenza. Il 48 c'è meglio. Thank you. infatti. Sono vicini e poi, oh, ma occhio che di quelli piccolini ce ne sono molti che, tipo questo che sto parlando io, di quelli piccolini adesso, questo, è, questo non è il 100 ma è il 199 di quelli piccolini. E magari gli ha fatto anche la voletta, dai. Pezzo di radio questo. L'ho aperto di radio e basta, non è di cosa gli ho fatto. Ecco la modifichetta che la faccio uscire con quasi con un watt quando tiene così aperto, solo quella modifica già. Il 199, buonasera. Il 199 non ce l'ha già 4 watt e un watt. Sì, sì, proprio di sì, ma c'era già da quando nasce, ma era stato annullato per fare un altro lavoro e allora glielo ho fatto esternamente io. Ah, certo. Ma il sito è il tuo, era altro? No, no, negativo, è falchetto, scusate, qualche e sopra, ci siamo dimenticati. Buonasera, buonasera. Ah, buon pugno, Papa, papa, buonasera a tu. Buonasera, buon pugno. Ci siamo dimenticati di falchetto. Falchetto mi stava chiamando con la magnetica, senz'altro, non l'avete sentito. Mi stava chiamando a Gianni, poi ha preso le... Aspetta, aspetta che sto sistemando il PL, già riprendo subito ragazzuri. PL stavi facendo. Però già riprendo subito ragazzuri, eh. D'accordo, d'accordo. Ti dico una bugia, ce l'ho però serve a me, capito con voi, serve a me, capito, ce l'ho però, perché ce l'ho discorta io per me, capito, in cambio a volte mi si spana e ce l'ho discorta io, capito. Sì, a cappa, è una basetta similare a quella, non c'è che, anche se non è il tubo 2001, non me ne frega niente, capito. Ma per chi serve? Per te o per chi serve? No, serve per Fabio, perché in pratica c'ha lo stilo, c'ha la carica, ma rimasta la barretta per poterla attaccare alla... Infatti ho regalato io una piatta da agganciare nella gamba satellitare. Quando c'è la piantisce, gli fa il buco e gli manca solo la base. Il pezzo di sotto per agganciare il cavo ce l'ho io, mi. Quella cosa per agganciare il capo, anche il bulloncino, mi serve solo la basetta, anche senza gomma di sotto, la gomma ce l'ho io, mi serve solo la base, tanto per tenere lo stilo fermo. Ce l'ho qua la 2001 e niente e poi c'ho anche la Sigma 800, c'ho della Sigma 800 la basetta che è precisa la 2001, quasi simile, e la della 2001, però siccome io di delle Sigma 1000 ne ho due, ne ho due qua, anzi ne ho tre io, sì che mille, ne ho tre addirittura qua, e c'ho una basetta solo, capito? E poi c'ho la basetta della 2001 che mi serve, poi ne ho una della 2001 che gli manca il pezzo di sopra, qua la basetta ce l'ho, gli manca solo quello che incassi sopra, anzi dove abiti l'antenna, quello ha incasso, gli manca quello lì. Ho capito, e allora niente da fare. Va bene, allora il piatto di pollo e vediamo come esce. La casa sua. Io le ho tutte regalate, tutte le rimaste, le ho tutte regalate. Siamo quattro le ho regalate. E la mette proprio in casa sua, perché non c'è la mano, ma qui a Camporati non ce l'ha in corso. Siccome c'è la tela di partenza, adesso stamattina l'abbiamo istituita, e siccome lui c'è questo stile, il lavoro del furgone, capito, della SDA, lavoravo con l'altro. Certo, con quello stile con quella carica, era per quello che avevo visto. Andare, pazienza. No, sai cos'è, Pompo? Che io a volte vado su, faccio Foresta Burgo, che è quella zona lì, zona di montagna, ci sono alberi, no? E già due volte ho spaccato il coso della basetta, proprio ne ho spacciato già tre di basette, ti puoi immaginare. E ne ho recuperato sempre da qualche amico, capito? Me ne ha dato una già di Gippone, poi me ne ha dato un altro amico, un altro per un certo Moro. E sono riuscito a farmele così, mi. Adesso ne ho, dico la verità, ne ho due, una della Sigma 800 e una della 2001. Però c'ho l'antenna 2001, ce l'ho, nuova, e c'ho la K2 di antenna, e c'ho la base della K2, e va bene, la 5000 turbo che c'ho in camion, capito? Io ho montato quelle là, quando mi si è spaccate ho operato le cose della 2001, che sono più o meno precise, capito? E niente, ecco perché le tengo di scorta, se no poi rimango, mi si spacca e mi trovo le antenne senza basette dopo. Sì, ok, non c'è problema per quello. Pensavo di una magari che senza, proprio per non utilizzarmi, cioè, non fa niente, cioè, gli ho dato un dipolo, chissà che sarà un dipolo almeno, non riuscirà quanto l'antena la di macchina, meglio di niente, cioè, al limite se la comprerà l'antena per una magnetica, quindi utilizzerà la magnetica in casa, se l'antena è senza niente, soprattutto non ci può salire, quello è una discorso. Va bene, tutto ok. Ah, ok, intanto sì. Sto terminando di tappare tre cose, così provo questa antenna e come esce il robot. Ho preso di quadrato, gli fa il buco al centro e ci mette l'antenna lì e l'attacca lì vicino al terrazzino. E si vede che va alla grande, ma bene veramente. Sì, stiamo andando alla grande prima, va bene. Cazzo, che stai andando in terrazzino così, sai, mettiamo di sopra lo stilo. Noi stiamo andando alla grande prima, ovviamente, ma è brutta la cosa, vabbè. Mentre la cosa da dire è capace capo con nome, dove si apre col segreto. Quello che andiamo di sopra, col segreto, quello che andiamo di sotto. Una boomera mette, io te l'avevo, l'ho regalata la boomera, capito? Sì, dimmi, no, boomera, non penso che sta avanti, dimmi, io, Pierpa. Egli alla 2001 questo circuito non è a me. E se metto una base da di sopra, anche se sta il gommino, per dire, quello che attacca la carrozzeria. Io adesso ce l'ho tutto. Sono spaccati due a me di quelli lì. C'ho il pezzo senza quello lì, tutto il pezzo complesso della basetta, però gli manca il pezzo, se c'è quel quadrato, quello che va su dovrà mettere l'antenna che si mette a incasso e poi si mette il dado da sotto, ce l'ho io una anche il gommino ti posso dare di sotto. Il pezzo dove andiamo a cercare, c'è il cavo quando ce l'ho io, completa col cavo, c'è il pratica, ce l'ho. Poi c'è il bulloncino, quello lungo, che poi va abitato da c'è quella base prima in plastica, poi c'è quella in metallo dove lasci lo filo, solo quella mi mancava e basta. Quindi, però io mi ricordo che la 2009 è molto civiltata, non era combinamento, invece la 800 sì. Allora la 800 ci ha messo da tre spire, mentre la 1000 ne ha una, però la 2001 mi ricordo che non era cortocircuito, mi sembra che è completamente diretta. Negativo. Allora ti faccio sapere una cosa, che la basetta dell'800 e della Sigma 800 va bene identica alla 2001, capito? È identica alla, è come la 3000, la stessa cosa, sono identiche e precise, perché ce l'ho sia della 2001 e dell'800, ce l'ho tutte e due le basette qua. A portata davanti a me, c'ho da mangiare i miei yucchi. Ma io mi dico, non mi ricordo che ci sia una bobina all'interno della basetta, la verità. Mi ricordo che c'era pettine a rame con la sagnata, però non mi ricordo se c'era una bobina. Allora siamo fregato, niente da fare, allora fottitini. Se non c'è la bobina, se ci vuole il coso, fare la bobina a fare il bisogno della spina è un casino. È un casino, allora lascia perdere, fottitini. Aspetta, forse non ci siamo capiti. Allora, se tu prendi di quelle antenne, quelle della Midland, quelle non ne hanno, non sono... Invece questa sì, la 2001, la 5000 Turbo, c'hanno cose rame dentro che gli gira attorno, hai capito? Dentro la basetta di sotto c'è cose rame che gli gira dentro, hai capito? Come l'800, qui ci identifica. Ehi, così, la 2001 della Lemma, quindi quando identica l'800 è una 1000, è 12.000. C'è la cosa dentro, è stato un casino, sapere la spina la parte è un casino, non me la ricordo più io. Allora, non ci può più, adesso si deve la basetta azzurro, giusto? Allora, io ho la basetta, ce l'ho, senza le cose, metallo che si incasso dentro. Capito? Che fa massa con quel rame attorcillato. A me il pezzo di sopra, perché io queste basette le ho tolte per fare... perché mi si è spaccato nell'altra basetta della 5000, Turbo. Capito? Nella 5000 Turbo che ho, che è di tutto di un'altra marca. Eppure... è andato bene lo stesso, io le ho messo il coso della 2001, capito? E qua ne ho un paio, ne ho della 5000 Turbo e della 2000, anzi quello che ho io è della 2001, quel pezzo che ho io proprio qua smontato, che gli manca il pezzo di sopra, è della 2001, neanche dell'800, è della 2001 Antone. Che gli manca il pezzo di sopra, il metallo, dove avvitti l'antenna, quello gli manca, perché poi da sotto metti l'avvitto per avvitare. Quello lì, se c'è quello lì, sei a posto. Ho capito. Vabbè, adesso dopo vediamo. Quando si viene Fabio, che adesso vedo, sta solo per 3:30. Se viene, vediamo, allora dimmi te una all'altra, se vedrà di fargli qualche modifica. Non c'è problema. La voi dell'altra che è della Midra, quella antenna lì, quella no, non è accoglimento, la basetta, quella ce l'ho la basetta, quella ce l'ho la basetta di quella lì, ce l'ho completa. Ho capito, va bene, c'è qualcuno che vuole mettere chi è? Quella che lavora in cortocircuito la 48 Turbo Midland. E quella non lavora in cortocircuito, no, quella non è, no, quella no. Di basetta e di tutto, se poi vuole una Sigma 1000 gliela do completa di basetta e se la vuole io qua 25 euro gliela do completa la Sigma 1000 completa con la basetta. Vabbè, dopo quando te fanno chiamare in qua ti chiedo ricco. Arrivi ti faccio salire così ci parli anche tu e non c'è problema. Se la vuole tu sentire la raccolta fa prima, la verità. Sto bene ce ne stanno, così scendiamo l'altra e fate già pericolo i miei abiti. Non c'è problema. Non si sta per chiami lui. Spero che c'è la Falchetto che sta facendo tutto disgraziato. Ma non è combinato a Falchetto. Ma mi senti adesso? E adesso sì, se andiamo qua, ma non si con la magnetica, sì. Metto a casa. Anche piccola di quelle antenne da mettere sul tetto, ma se la metti lì nel terrazzo. Ma di problema fare una cosa già, serve deve salire su, capito, se ne sotto bisogna. Mi serve, perché poi appena trova quello che è un tuo piano, sale su e sistema l'antenna, hai capito? C'è una matta, ma sta vivendo con tabulanza, con capo, il gianco collegato, solo l'andata collegata è accorto. Non funziona. Se invece mettiamo il marcio, non lo so. Dopo un pugno? Via. Come sto uscendo adesso, bene? Adesso sì, se no. Positiva, riprendete. La maglia sei tu già. No, no, prima c'è l'antenna sua, qua c'è il PL, devo comprare le PL e cambiarle, ho capito? La maglia pigli il PL di quelli piccolini, glielo saldi e così a posto. La puoi utilizzare anche in macchina domani. Ti sei attaccato anche in macchina o come si deve essere a posto? Andrà bene, dai, fa girare. Ciao Vulcano, buonasera anche a lei, Franchi, se ti serve un PL mi pare che ce l'ho. Cosa già? Se ti serve un PL mi pare che ce l'ho. Ma ce l'hai? Chiama, chiama. Cappa, andrà bene. Ehi, ma come fai a portarlo? Ma sei a portare la macchina? Ah? No. Cioè, rapporto, ma sono a dolore al ginocchio stasera, non ce la faccio, la verità. Però se vedi tutto... vabbè, dai, già, lascia perdere. Non c'è problema, tanto non è adesso la sto piazzando, dai, non ti preoccupare. Già, ti ringrazio lo stesso, dai. Cava. Hai compreso, ma che? Deve trovare un pezzo di lamiera, almeno... un 60 cm per 60, se non un metro, se un metro e meglio, un metro quadrato, gli metti la base magnetica, gli fai un foro e gli metti l'antenna, e funziona bene, ma appena lo metti in terrazzo e funziona alla grande. Tappa giappa, se andrà bene. Aspetta, ritiro un po' di roba qua nel macello. Pazzina è già questa radio con questo microfono, adesso ce l'ho messo questo microfono e c'era il coso... lungo, dai, molle molle. Sono resuscitato. Via. Mi sono fatto un pisolino, ma dopo un caso non mi butti in sera. Durato 5 minuti. È poco, però mi basta. Ma buonasera a tutti quei nuovi che sono entrati, dai. Io già in ruota, ma il sonno mi ha colpito. Vabbè, io l'ho già salutato, ho fatto entrare io. E poi chi è entrato di nuovo? Ho sentito di quello che ho detto, ho fatto il numero 5. Una cosa allucinante. chiamate a proposito di numeretti, la posta che c'è in via Poggio. La gente la serve solo un bel veloce in realtà. Al cosa, al monte, cazzo, pare di... che stanno muggendo la mucca, cazzo, quando, quando ci stanno. Tra, vedi, ti tocca più impresa, appena ti date le bollettine di là. Ma sono 7 sportelli che funzionano. Ma sono bravo, certo, bravo. È una posta, funzioni così. Siamo lì, allora bisogna andare lì. Vieni qua, le trattabolati già, entra le 8 e le 2. Qua, se non è capitato a noi così per fa perché era l'una meno un quarto, non lo so, però avevamo, mi pare, 20, eravamo 20 persone davanti, avevamo, in un quarto d'ora, 20 minuti ci siamo sbrigati. Centrale, se vai alle 2, 2 e mezza, non ci trovi quasi nessuno. pagava. Poi puoi lasciare cose che sono momenti di pagamento, pagano le pensioni, poi c'è il televisore a pagare, ci sono le scadenze, tutte queste cose qua, allora mi sono pure i burli. Bye. mi si usavo di lui il farò. Ehi, la faccia in cu. Ehi, adesso lui c'è la grande, ci sta anche la mia faccia. Le va sì che mi hanno fatto per domani. Chi è? Chi è? Ehi, guasto, il guasto di qua, Martino di merda, quello che c'ha la fusta che quando passa la sarà strisciata. Coro mio, coro. Ehi, vabbù, già sappiamo dove andare per quello, E un peso da è? Sì, è portantino. Quello che c'ha la faccia da corso, da peluriano. Ecca la gamba. Antonello. Sì? Faccio, eri dormito? No, anzi, io sono andato a prendere. Ci mancherebbe. Io cantaci qualche canzone. Che gonfio. Ne fate in due, una dove gonfio, chi è? Io sono, ho detto che ti gonfio. No, ancora non sono gonfio, lì ci mancherebbe. Ciao, Natalino. Dai, falchetto, caro caro. Si è appena alzato, ha preso il caffè. Natalino. Buonasera a tutti. E no, adesso vado e me lo faccio il caffè, la faccia di chi non vuole sempre. Ciao, Natalino, infatti sto andando anch'io. Ciao Gianni. Natalino, dì la Fiorpaolo in quella posta, come ti servo? Sì, tipo al Banco di Sardegna di via San Cazzello. Cazzo. Sveltissimi, una cosa mai nicchia, solo al Banco di Sardegna li ho visti così veloci. Quello di Piazza Castello, mi ci sono andato due volte perché lì ti fanno entrare con le scarpe antiopportunistiche, ma sono velocissimi. E quella posta siamo andati con Gianni delle macchinette. Hola? Dentro era della Giada di Cipirante, no, non mi davvero, voi ci sono a Pierpaolo. Non vi davvero, poi domani non vi davvero, ma io non ti perdere l'animo. Ma guarda che al monte ne facevano uno ogni mezz'ora, mi. Cazzo, non è veloce come quello di che siamo andati noi, capito là? Lì al monte, quando sono andato, mi sono cacciucciato. Mi sono fuggito. A chi sa ne travaglia? Hola. A chi non so mandroni. No, perché lì adesso hanno fatto un nuovo tipo di cose, di sportello. Praticamente in uno sportello puoi spiegare più cose. Cioè se tu hai un pacco, delle controcorrenti a pagare, dei versamenti da fare, puoi fare tutto in uno sportello. Al monte c'è un piento. Allora sono di un piento. È entrato Massimiliano. Allora si intende, a vedere. Buonasera. Buonasera a tutti. Sega, buonasera. Buona, non so che c'è il ruolo, ho sentito Antonio, Pierpaolo l'ho sentito. Ho sentito, lo chiamava Gianni. Gianni, Natalino, Antonio, poi chi c'è? Antonio. Buonasera, Massimiliano. Buonasera a tutti. Antonio se l'hanno pompato, Lea. Buonasera, Massimiliano. Domani. Ciao ciao a tutti, là, buonasera, ricordate che stai parlando di Paccioccio? Buonasera, bravo! Ha detto che è tutto gonfio, mi dice che se l'hanno pompato. Ma sarà, ma si è brigato, dottore, pompato di venga in Natalino, buon combustibile. Parlando. Ti va a rendersi, a un bianco, perché all'altro ti fa ancora più male. Quando fai così ti stai male? Ma io se ne viene a far vedere, con Iuppa. Cioè, come ti abbiamo messo la portata sotto la pompugna, Iuppa? Ho capito perché avete parlato in 50. Questo mette la radio in macchina, saliamo con tutte e due le macchine. E dicevo che poi, ma non scendo tanto a goccio. Io non lo facciamo parlare col muro. Faccio schiattare con muro, lo faccio parlare adesso, a quel pompugno. Dice sempre gonfio che ce l'hanno pompato. Adesso guarda, gli metto la portante sopra casa sua, così impari e ti faccio schiattare, hai capito bello bene? Lo dico anche il numero di telefono. E la portante di cacciofo mi metti? La portante d'oro! Mica che sei Massimiliano, già stai uscendo Massimiliano. Ma che impegnato in altri discorsi. Che no, già stai uscendo Massimiliano, c'è problema. Vieni avanti, vieni. No, no, sto ascoltando, vai, fate, visto che state parlando di Coiupa qua. Vai, che ha solo 5 minuti di paura. Adesso vado a farmi il caffè, là. Continuate il questo che vado a farmi il caffè. Anch'io. Chi c'è, Antonio, riprendi. Sì, la Massimiliano, però sei passino, come vai? Ma come sta uscendo la tavola? Io perché non ho un controllo, non riuscivo a rispondere. Benissimo. Sante cos'è? Chi ha detto benissimo? Antonio Momolo mi ha detto benissimo. Perfetto, forte e chiaro. Se lo siete sta arrivando qua al presidente Massimiliano. Devi fare il caffè, tu, Natalino. Ma se no, ascolti a me. Cimelia, dimmela. Ascolti a Babbo. Sono negativo. Sto calmo da me, sto facendo bene. Ah, mi ascolti, sì o no? Non mi ascolta. Ho ben 15 sei qua, Massimiliano. Ma io per farlo non lo sento, se è un radio, buh, salutato, io non lo ascolto per niente. Ma con la manta lo stai uscendo? Tappa. Però è più basso segnare, Massimiliano. Non vuol dire più basso, è sempre uguale, non ho detto caduto, ho solo acceso, Massimo. C'è lo 7-8 qua arriva, oscillante, capito, non è il presidente. A me 9-15, però mi ricordo che avevo anche il fuoco. No, non so come dirti già, non ho mai toccato niente. Ce l'hai apposta. Aspetta, controllo. Chiama. Cosa ci dice la mia impressione? Però mi ricordo che 9.25 è qua. 9.20, vabbè, dipende anche come esci. Oh già, stazionari è 1.1. Allora lascia così. Probabilmente tu esci tante volte e esci anche in altre maniere, quindi magari risultava così. Non so che dirti. Ho attaccato questo 25 perché l'altro non va. Non va. No, il palmare, quello dell'Inter, che è normale, va. Capito, stamattina stava facendo a tratti. Adesso l'ho aperto, gli ho rifatto le saldature. Adesso, vabbè, un attimino che provo ad attaccarlo e vediamo un po' là. E perché questo non va bene? E capo, va bene lo stesso, anche questo. Ma voglio provare quello per vedere se è ancora a tratti. Adesso mi faccio scaldare, il viso, l'attacco anche io, le 9.25, va? Cazzo. Ma babbo, senti Massimilia? No, non lo sento, Antù. Ma lo senta tuo padre, Antù, vedi un po' questo microfono se sta andando bene adesso. No. Ho un passo 5. Avanti, chi è il passo 5? Sì, di nuovo Giuseppe tra di voi e penso di uscire bene adesso. Oh, adesso ti sento, Va bene adesso, sì. Sì, adesso ti sento, forte e chiaro. Ok, stai uscendo bene anche tu a quanto vedo. Esatto, adesso ti ascolto bene. Antonio, chiaro sì, però le voglio fare. Ma io ti nel palo con Giuseppe. Come Santiago sei quasi... Non ascolto, forte e chiaro. Un attimino, che c'è... Allora io sono qua a Tava con 48 normale, Massimiliano. E l'ascolto sia per Paolo che a Giuseppe. Aspetta, lo prendo qua, se è successo qualcosa. Massimiliano, mi ascolti? No, non ti ascolta Pierpa, non ti ascolta. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, capito? Perché io sei basso, ma io ti ascolto bene. E anche a Giuseppe ascolto io qua. Cava Cava, io sono rientrato col Super Midland Plus. Porca la bomba, la bomba, orca, orca. Oh, lui, vedi un po' questa radio, se sta andando bene questo microfono. Vedi un po', c'era il microfono, come lo vuole. Prova, vedi. Allora, c'è qualcosa che non va, ho il microfono, o c'è qualcosa che non va? Cosa fa, perché? Mo mi dice male, come che c'è il microfono che sta andando male, qualcosa. aspetta, provo a fare l'altro, vediamo un po'. Dove ti passaggi stai andando bene? Sento Falchetto, come mi ascolti? Orde chiaro, orca la miseria, bella, bella, bella radio. Questa secondo me è la migliore come radio, eh. Porca miseria, bella voce, squillante, pompante veramente. Questo è l'MV25, catta, era tanto senza usare, con batteria anche scarica. No, no, buono, buono, catta, alla grande. Oh, lui? Prova a vedere. Vai da vedere, questo è l'MV25 con il tornado, vedi un po' se la radio va bene adesso. Ottima, ottima, Massimiliano, ottima. Capito Massimiliano, ti ho detto tutti, ma non so se eri tu che stavi regolando qualcosa. Ehi, ero sempre io, va. Va bene così? Cappa, ti confermano tutti che va bene così, però già ne do più rocco. Ah, ma prova a fare un processo che ho distratto, che stavo pulendo qua un po'. Bambana, perché la domenica mi tocca, avanti, prova. Vado a vedere già, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, la radio va benissimo adesso, va benissimo. E forse dipende anche dall'apparato, boh. Che non sia l'apparato che abbia qualche problema, che stia perdendo qualche componente, boh. No, no, no, l'apparato non ha niente, questo te lo posso garantire. C'ho gli spinotti sia dell'MV5 che di quello del tornado, li so sempre. Bisogna riaprirlo da vedere un po', per vedere un po' cosa è successo, magari c'è qualche filo che non tocca. E se no non sarebbe uscito, se fosse stato il malacchino. Ma non si vedeva, ti confermo anch'io, sta uscendo una bomba, eh. E là, vedi Massimiliano se mi ascolti adesso. Cappa, per fare che ti ascolto. Oh, Cappa, mi ascolti anche tu, Gigi Vulcano. È positivo, ma ti ascoltavo anche prima, capito, Pierpa? Cappa, ora sono tornato a copiare l'antenna, così sono tre. Un attimino, che c'era Giuseppe che ha cambiato posizione dell'antenna, vediamo che stava arrivando forte adesso qua. Avanti, Giuseppe. Sei Gigi? No, io sono Pierpaolo Radio Vera, che ti ascolta, adesso ti ascolta bene. Ok, Vela, niente, ti sento... Guarda, fai un altro passaggio. Come passaggio ti posso dare un Santiago 8, fatto. No, no, vabbè, io ho detto a te fare un passaggio. Adesso sei Santiago 9, addirittura. Ha cambiato dal giorno alla notte. Non so se ti ascolta loro, Gigi Vulcano, ascolta Giuseppe. È positivo, ma mi sa che c'è qualcuno che si sta mettendo la portante, ma credo, con un bip che però ci fate sopra. A me, mi sta mettendo la portante. Poi Massimiliano mi sa, ma non penso, perché... Ma che sentivo un bip sotto, mi pare, quando parlate. Capo, va bene, lasciamo fare, dai. Non so chi è. Massimiliano, tu lo ascolti, Giuseppe. È positivo per te, in cuffia solo lo ascolta, perché così senza cuffia lo ascolta basso basso. È 9.30 qua Giuseppe, fondo scala. Sì, con Santiago di 9, è una radio di 5, là fa tutto così che vai bene. Chiama il nostro ruolo, tu lo ascolti adesso. Io lo ascolto fondo scala, 9.30. Papa, allora Giuseppe va tutto bene. Lascia così, metti un piano, fissalo così e mo. E KK. Maria, lui va a Santiago 3, comunque l'ascolto chiaro lo stesso, a Giuseppe. A me Santiago 1, comunque lo sento chiaro, confermato, Giuseppe, dici che cosa hai fatto? Hai cambiato l'apparato per caso? No, è che ho cambiato postazione. Ah, e dove l'hai ficcata questa antenna? L'ho ficcata sulla capota della macchina. Ecco, e dove dovevo andare per rispecchiare? Quello lì ci vuole per forza, l'antenna della macchina vanno messe così, se no quelli lo messe in una piastra, sopra una piastra di lamiera, e vanno bene lo stesso. E il fondo di una pentola, se riesco a recuperarla, sempre che non mi picci con mia moglie, che ho qui dietro in macchina, la posso sacrificare. Pentola? No, lascia la pentola con me, cerco questa lamiera, non ho più questa lamiera. Gigi, non stai facendo male. Cosa? La mi ha dato il microfono, vedi un po'. Adesso va un no, poco fa stiamo accentuato quasi per andare fuori frequenza. Bravo. Giuseppe. Come dice Zione, Santiago, quasi uno, cambio. Ah, sì, un momento, scusa, adesso sì. Stai oscillando, 9, 7, sì. Sì, positivo, in movimento. Ah, ecco, adesso c'è oscillante, 1, 2, 3. Era poco fa, non ho sentito meglio, di nuovo, è fisso. Ok, ma niente, domani come vedo di recuperare l'antenna, vediamo di uscire meglio anche dalla postazione fissa, cambio. Già va bene allora. Già va bene, vai Gianni. Sì, adesso ho cambiato il giornale, non ti è brutto, perché a 9.30, poco fa, se, il massimo che mi è arrivato è segnale 3 di Santiago, ma in alcuni passaggi addirittura 0 di Santiago e uno del radio proprio andando proprio bene, dai. Cappa, detto questo, rilascio tutto quanto Antonio, se c'è ancora, e poi farà girare. Cappa, da me sta arrivando 979, 910 qualche volta, non so in che zona sia. Le sacre che alle file delle sacre che rude sacre che vabbè, ha detto quello che è il momento, dai, è il momento perché qua è oscillante. Sempre masso per fare l'ascolto, vedi un po' tu se mi ascolti bene per fare a Santiago 9. Ma Gian, da te? Si è attaccato il Milan, vabbè, non ti voglio segnare perché c'è con le tacchetterie forfettaggio segnale, ma si vede. Vabbè, non ti accorgo, non interessa perché c'era un PL mollato. Con le stacchette, poi sono col magno, perché vedo qui tocca al magno a farlo girare, quindi sono anche con quello lì. Grazie Emiliano. Ehi, fai che? Santiago, tu sei qua, lascia tutto così, va bene. Campa Roger, ora. Gigiarie, da te tutto Roger. Beh, se non sei Roger da me, deve da far tutto, eh. Anche se potresti... Addirittura ieri sera ho provato a staccarne l'antenna da dietro il baracchino e a 9.20 senza antenna di baracchino, qua c'è un segnale 9.20 senza essere collegato, tu ti puoi immaginare la radio chiara, bella, la radio di 5 super 5 9.20 di segnale senza antenna e acceso il baracchino senza antenna. Fatelo un conto, cosa arrivi in due ore. 10 qua adesso arrivi, hai migliorato sensibilmente Massimiliano. Cappa Antonino, non era accorto, c'era un PL un po' mollato, va, lo stretto, stazionario 1 e 2, sembra che sta andando tutto bene, va. Aspetta un attimo, Natalino, fai, metti portate, molla un attimo. Thank you. quando fa letto, come lui ha fatto quel passaggio letto che l'ha fatto letto. Sì, parlando lento così diventa ancora più bella. Beh, per fatta a volte si deve parlare lento su quel tipo di radio lì, se no noi a volte siamo, parliamo veloci, però quando devi modulare si deve parlare lento. E vi dico una cosa, con la voce bassa pure, se tu vedi a Tommaso Cifa, sembra parlando sottovoce, o se no Pepe Alfaccino, parlano, sembrano parlando Tommaso sottovoce, ma esce una voce grossa, quella di Tommaso Cifa, una cosa impressionante, eppure parla lento lento, e quasi in bassa voce, a sottovoce, non senza alzare la voce, poi ho letto passo passo parlo. Parli con me in vez di piccare, prova a parlare un attimino così, senza cambiare le voci di nulla, prova a parlare. Io parlo sempre come passo, non ho altra voce, altrimenti è vicino a casa mi tirano veramente le parole a testa. Vedi che radio, fatti vediamo. Dove ne sono accorto, sì, è la buia. Tu non ci credi, ti dà meglio quando parli normale e lento, e con la voce tua normale e lento è una bomba e sarrasi. Poi gliela ci dai giustamente quello che devi dare il finale, via dicendo, però se parli normale con la voce tua e lento, senza alzare la voce, ti fa una voce più, molto diversa, proprio bella, bella. Gaba gaba, ma io parlo sempre con la mia voce, ma parlo lento. Parlo sempre basso, perché già la mia voce è alta la per sé, se alza la voce la mano sì. Positivo, avanti chi stava fischiando sotto, avanti. Ma non è un fischio, no? Ce lo so qui, lo sai. Ah, lo sai tu. Sì. E cosa hai detto? Dillo pure a noi. È qualcuno che sta mettendo in sonda la radio, capito? Ogni tanto. Ah, esci dall'era di Indomato. Andare, andare. E allora con questo come vado, Pierpaolo? Cavala. Di lusso. Forte chiasso qua, forte chiasso. Andiamo sempre bene quella. Natalino. Via. Ma Pasquale domani è aperto, Pasquale? E chi è questo Pasquale? Pasquale! Gli hai aperto, mio padre, gli hai aperto. Avete parlato 60, uno alla volta. Sai che è molto importante. Ma si vedrà, se lo fa vedere una voce, non si comprende nulla. E io ho aspettato, non ci sono. Che so io, bro? Sei bianco e parlo, ma che è tu puro? Allora, chi è? Avanti, sotto chi tocca? No, per fare, adesso ti hanno fischiato sopra. Mi hanno fischiato sopra? Oh, allora devo uscire con la macchina. Mi sa proprio di sì. Un secondo di bianco per me. Basta. 3 secondi di bianco, avanti. Va bene, allora devo uscire con la macchina. Ma non ce lo puoi fare, che sai che cosa ti ha fatto? Ti ha fischiato sopra. Torna a fischiare. Che bello, quanto mi piace a me. Ma il fatto è che si sente, ma non è che si superano. Si fischia, si sente che c'è uno che sta fischiando, ma non è che si comprano. A scoprirsi non ce la, fai. Vabbè, cosa vuoi là. Lasciamo fare. E che mi sono dimenticato, già mi sono dimenticato di consegnare il regalo di Natale, quel CD di Pooh, il singolo, Uomini Soli. Ma ricordi come fa, cantagliela. No, non me la ricordo le parole, accennamela. No, io ho una brutta voce, poi mi registri, no. altro canale, per... Bravo! Ci sta un'altra cosa comunque, quando attacchi questa radio, c'è una chiarezza allucinante, va bene tu. Ma la radio è bassa di questa radio, è molto bassa, tutti dicono che è bassa. Allora, è tutto, è la facoltà. Vero niente, già. Bella. Adesso per un po' trattiamo questo, che è un po' che non la uso, ma adesso non siamo per un po', tanto mi piace anche a me, perché mi sento la mia voce in cuffia e la cosa che mi piace è quella, capisco come sto uscendo. No, è una bella radio, lascia tutto com'è, già, lascia tutto com'è, che è bella. Ma scusa, che è bella. Qualche invidioso che dice così e basta, non c'è problema, tanto mi sento come esco a far che... positivo, va che sta per la grande, positivo, si va tutto Roger, avanti a girare già. Ehi, a far che, questa è la terza radio della stazione, sono tutte in postazione. Va bene, dai, facciamo girare per Natalino, poi vediamo poi se si è preso il brasilero. E poi Natalino prese la fa girare la ruota. Già me l'ho preso il brasilero, già me l'ho preso il brasilero, non c'è problema. Già la gava, sempre alla faccia di chi non vuole. Comunque se c'è qualche radio in più manda qua che servono, ma già. Gatta, ce l'ha rimettato l'arrosto, come fai? E dammi quella che è a 2.20, così non attacco l'alimentatore. È un pizzicone quella lì, non te la do nemmeno. Poi c'è stata Alicio, dai. Quella lì tu ci tieni. Te la Alicio, te la prende Alicio, dai. Così almeno c'è quella che a cui tieni veramente. Quella già l'avrei voluta, ma non per neanche per usarla, già lo sai perché l'avrei voluta, fa proprio di più a poco di ieri. Bisogna buscarne un'altra e fare il cambio con quella di Alice, così almeno ce l'hai tranquillamente, così non te la prende, ce l'ha lo stesso e... Va bene. Chi è rimasto? Avanti, facciamo un po' di gioco, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. Capri 2? No, c'è Capri 2, a fare cambio con questa già. No, non faccio cambio di nulla io. Io lascio quello che c'ho qua. Hola. Non fa cambio. No. Mi va bene questa stazioncina che c'ho, mi piace. Sono soddisfatto. Ti aggiungo per qua, ti aggiungo il parla per 3 più 4 più 5, è portatile. Ma per che cosa? Per il maglio. No. Non lo do più. Beh, io ho questa radio. Il parla per 3 più 5 più 4 è il portatile, è Intec 570. No. O la do per soldi, oppure la tengo dove? E ti aggiungo anche gli anni 550, io. Ne aggiungi? Anche gli anni 550. No, dai. No. Rimane qua. Pazienza, però ho preso con l'ormai che mi devo dare altra gamba, quella sana. No, ma credo non te lo do lo stesso, perché te l'ho detto, lo do per soldi, oppure rimane a casa, perché io con i soldi poi realizzo quello che voglio, capito? Ti do 1.500 euro. So che con 1.500 euro te lo compri. E ti aggiungo anche due brasiliane. Guarda, le brasiliane te le puoi tenere, dammi solo le 1.500 euro, mi sta anche bene, me lo ricompro io. Sicuro. Allora, te ne dico. Avanti Giuseppe, ci sei ancora? euro 1550 centesimi. Guarda, se tu vuoi prendere una radio buona devi prendere questa qua. Questa è una radio completa, c'ha tutto, l'eco, con una bella microfonia e tutto. Gioia! Ma sei mal di pancia? No, devo andare a caricare che c'è lo scarico. Che è più potente, la radio che sto usando Gianni, o questa che sto usando io? Allora, qui come Santiago adesso si è uscito 9, 9 e mezzo, dai. Guarda io cosa ti arrivo. La radio qual è il mio corso? Beh, guarda, parliamo di cielo così vediamo. Cazzo di portate notti, no? E ti sei un po' la radio, la potenza della radio. Ma come potenza la tua va benissimo? C'è uno che viene affigato tutti qua. Sì, al fondo scala è salito, chissà chi è. Ma non ti preoccupare, la portante, a perdere. Per pace, io lo faccio come il tuo, questo qua, vediamo un po' la potenza chi è più forte. Questo qua, se tu lo fai, modifichi questo qua, è una bomboletta, e non dico che supera il tuo, perché il tuo è bellissimo come radio e come potenza e cose, però almeno a livello del tuo ci va. No, ma questo non lo tocco io, per lo lascio originale, non tocco nulla. Però già deve andare in mani giuste, lo deve prendere in mani giuste, perché se lo dai in mani sbagliate peggiori la situazione. Lo so. Ma tu mi stavi dicendo che Roberto ne aveva fatto uno, che era una bomboletta che ci rompe bene. È bellissimo di radio, la radio esce con una radio molto superiore il magno, non so perché, modificato diciamo con una radio più robusta, non lo so, più robusta, più forte. E niente, io ho visto quello che ha fatto Carmelo Maciste, che ha fatto a Palmiro, quello mio, quello che avevo io, il magno è micidiale, quel magno lì è micidiale, è uscito bene, ma bene veramente. Ma il microfono lo stesso li lasci, Gigi? No, CTE, gliel'ha mandato due, il suo originale, il suo che io gli ho dato col microfono suo, gliel'ha tornato, gliel'ha dato due CTE modificati da lui, dai, col pulsantino, come me la ce l'avevo uno io, me l'hanno fregato, non me l'ha più tornato, gli unici c'è quello, ma me l'ha mandato Carmelo Maciste per il 48, quello col pulsantino, capito? E poi me l'aveva fregato, infatti gliel'ho chiesto a Palmiro se me lo dà uno di quelli che ha mandato Maciste, ne ha dato due per farati di cipiera. Ma l'hai sentito in questi giorni? No, ma in questi giorni non stavo modulando, ce l'avevo un giorno solo in camion, No, io l'ho sentito solo una volta, ma e c'era adesso che sta aspettando la barra sua, ce l'aveva attaccata, non c'aveva la barra sua, capito? Ma quando l'ha ritirato l'ha provato e l'ho sentito io, e bello, bello veramente, bello. Il magno esce modificato, poi ce ne sono tanti adesso modificati su, escono bene, se sono in mani giuste escono benissimo, ma devono capitare in mani giuste però gli apparati chi è. Beh, quello sempre, Gigi, anche con l'era 48, se capitava le mani giuste ci va bene, io direi, non dico una cagata, ma l'effetto ecco non si sentiva con l'elicottero, eccetera, eccetera. Avete parlato in due, tre, quattro. Positivo, positivo. Giuseppe, ci sei ancora, Giuseppe, sperando che tu mi tiri fuori, Non mi ascolta proprio a me, Giuseppe. Fammi da ponte. Giuseppe! Eccolo! Lo ascolti a Gigino Vulcano? Sono da ieri cercando di beccare Gigi Vulcano, però non riesco a sentirlo. È qua, ecco, non lo sento. Non lo sento. Non vedete Gigino Vulcano, che è qua. Gigino! Ci sta cercando, signor Giuseppe! Ma non mi ascolti. ascolta lui a me, non mi tira fuori, io adesso c'ho, io c'ho solo baracchini normali qua, non c'ho altro, ecco perché non mi ascolta lui a me, non posso fare altro, c'ho solo roba omologata, baracchini e basta, c'ho, non c'ho altro qua. La gala, che cosa gli vuoi dire a Vulcano, dillo a me perché non ti ascolta, dai. O Gigi. Pino. Giuseppe. Sì, eccomi. Letto, cosa gli vuoi dire a Gigino? Perché non ti ascolta, ha detto che poi lui non può usare apparati diversi, c'ha solo roba omologata perché se lo disturba. Le 10. Come? Non ho copiato. Dicevo che visto che ancora non ci siamo sentiti con Gigi, non ha avuto l'occasione di fargli gli auguri di un buon 2010 e niente, un buon rientro al lavoro e via. A Gigi l'ho ascoltato. Sì, ma io ce l'ascolto a lui, l'ascolto, ma me l'ha fatti anche ieri gli auguri, dimenticato, ieri ci siamo fatti gli auguri, ormai non è capodanno, ieri ci siamo fatti gli auguri con Giuseppe. Giuseppe, ha detto che me li avete già fatti ieri, cappa! Gianni, allora so voi, io mi tocca ancora a costo! E vi piatto! Un attimo, Pierpaolo! Pierpaolo! Non è che c'hai di quei fusibili da 15 ampere in vetro? Fusibili da 15 amperi, di quelli in vetro, che mi servono per l'alimentazione di quello vecchio, che si è bruciato uno e non accetta. No, di quelli grandi in vetro, che sono tanto a 2,5 io. Mi andrà bene, me la già faccio accusare domani. Speriamo che riesca a scappare, a prenderli. No, quelli in amperi mi sembrano tanti, Ne ha due, uno al positivo e uno al negativo, quello del negativo è partito. Ma quelli sono perso tanti, mi. Che lo so. Ma Natali, come stanno partendo tutti questi fusibili, questa roba? Non è che c'è qualche corto? Cosa cavolo mi so? Quanti due? Ed è di quelli grandi. Adesso me ne compro una scatto. Infatti conviene così, comprate una scatola direttamente, così almeno quando ci servono ce li hai. Non fare come me che una volta ne ho consumato quasi una scatola, avevo 20 puri, non me ne ero accorto, cazzo partiva il fusibile, poi di quante volte, pum, l'altro, pum, tanta gente, ma cosa è succedendo? Guarda il coso, ho visto 20 più qui non c'è niente in corto. Stazione domani si piazza? Oh, aspetta un attimo, Natali, guarda che stai sbagliando, che sicuramente sarà da 1,5, 1,5, 12,15, mi sembra impossibile. Sono quelli del K. Fare grosso dentro, capito? Si vedono che sono proprio così. Mi fa un po' quel strano, ma va bene. Sono malato, Deo. Uno funziona, è mezzo partito, quello positivo, e quello negativo è partito, che è misurato con 7. Quelli dorati. Ma vabbè, io uno in più ce l'ho, ma è da 20 a 6. No, sono di quelli più piccoli. Sono di quelli più piccoli, normali da 15 ampere, capito? Non sono di quelli dorati ce l'ho anche io in macchina, come quello che sta dicendo. Ah no, quello dorato, oggi che ce l'ho in macchina e niente, ne ho uno di scorta io qua, ai 20 ampere, sempre di quelli dorati. Però. E come quelli ce l'hai tu in macchina, giusto? Io ce l'ho in macchina, ce l'ho in camion, così quelli li sto parlando io. No, quelli più piccolini sono più piccoli normali, vecchio sempre. Tipo quelli che vanno nelle baracchine, lì, di quella grandezza lì sono. Come quelli dell'AVA 48, solo le 15 ampere. Io ce l'ho a Roma, ce l'ho in camion. Qua non ne ho, ce l'ho in camion quelli lì. Cazzo. E vabbè, domani me lo vado a usare, me li compro, ma cazzo. No, ho comprato una scatola, ma da 2,5 li ho presi, capito? Da 2,5. Io ho capito, non l'ho preso perché sono un po' più grossi, no, brincami, come sono andato a accordare, tu, che faccio? Sì, basta farglielo come ho fatto io. Io gliel'ho messo il filo da filo elettrico, gliel'ho fatto lo tosto, gliel'ho fatto più grosso uno. E l'ho fatto così, gliel'ho saldato con lo stagno, basta farglielo così. No, no, non mi fidano. Non è roba da bufana. Io sono il suo che tu. Che è il suo. Ho rimesso un alimentatore. Per una cosa del genere. E ci sono. No, no. Meno male che anche mi era arrivato quello nuovo, se no era stato con un alimentatore di me, capito? Ma lì se ne doveva puttare. Cos'è, ci sei ancora? Cavo cavo! Sì, ciao! Oh Gianni, devi riferire a Giuseppe, adesso Gigi Vulcano, se ti puoi fare sentire, ascoltare da vicino e da lontano, da lui dovrai passare, se no lui da vicino e da lontano non si fa sentire mai da nessuno. Giuseppe! Eccolo! Gigino ha detto che se lo vuoi sentire da vicino e da lontano, da lui devi passare, capo! Ma deve anche bere il vino del vulcano, così lo sentono da vicino e da lontano. Esatto, esatto. Avanti il break. Raga, parla, saluto a tutti, maglio da questa parte, guarda che abbiamo fatto 3-4 passaggi alla tavola di tutto sporco di sangue. E poi sempre tutti a tavola a mangiare come cagnolini, Calma, calma, buonasera. Ti vedo tutto agitato, ma dove sei? Passaggio adesso dove si fa colazione, alla seconda. Ah, che bagara, siete tutti infangati bene, sì? Sì, abbastanza, diciamo che abbiamo fatto i bagni di fango, per iniziare a prepararsi alla terra. Capo, e dove l'ha fatti oggi? Ah, così in giro nelle campagne circostanti, niente di particolare. A Portoferro bisogna andare lì, nella pinetta, come sono andato io con Land Rover. Che Land Rover c'hai tu? A parte che poi ormai Portoferro lì nella pinetta non ci sono dei passaggi fatti, ci sono di più verso Porticciolo magari. Una notte sono andato per servizio, io faccio protezione civile, quindi siamo entrati dentro e sono scappati tutti i cinghiali di notte. Cinghiali, abbiamo visto anche noi, abbiamo fatto tutte le cose, ce ne sono una caserma. Ok, dai, un attimo di bianco da parte mia, li prendo subito. Se ce la faccio a cominciare a 25 barra 50 a cenare il baracchino, vabbè, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Fuori Sassari? Ehi! Che bagata, buona passeggiata allora, che ora? Ehi, non sono andato a lontano, sto andando a Muros. Sto andando a Muros, lì. Sono andato a vedere la casa di mia nipote, se la comprata nuova ci ho invitato a vederla, andiamo a vederla un po', poi ci ridurremo. Ciao ciao! Ciao Gianni, buona passeggiata, buon tutto, vai, che la ascoltiamo magari se riattacchi alla macchina, ciao ciao! Ciao Falchi, ci sentiamo! Saluto tutta la ruota e a risentirci presto da parte di Giuseppe, ciao! Ciao Giuseppe, ciao. Stammi bene, dai. Mi raccomando, una buona stazione, infatti. Ok, faccio il possibile, ciao. Ciao, ciao. Ciao Giuseppe. Che dai, un attimo di acqua, avanti via. No, a dopo. Ciao. Ok. Capagava, è capagava. Ho detto quel dolce. Preparare la baffetta alla pizzina. E va? Emiliano. Così è, non ho sentito io. Infatti non ho sentito neanche io, però deve essere che la baffetta alla bambina. Cappa, cappa. Giacomo, per me, dai, riprendo dopo. Tu. Sai, faccio questi segni accendi, ripini, no, che lanci. Ben freddo. Poi due pezzi di legna. No, gli altri un po' c'è di pezzeregna, ma sopra, la mia di sopra di casa, però, la mamma mi andata sopra e mi callo. E tu puoi andare in chive, se fai in chive. Ma no, che non attento, mi andata sopra, là. E me la... è già acceso da stamattina il fuoco, su. Cappa! No, se ne stai andando? Che, mi pare, mi sta tra... io la so, avevo solo le 5 e 20. E domani riprendiamo a lavorare, c'è il fatto, domani riprendiamo a lavoro. Ma domani ce ne prende la grave, positivo, così. Ma non so da pensare che non attendere le luci dei pomelli, no? Come mai? Non sono spente le luci del pomelli, lo sai, io non me ne ho avvisato. Niente, questo è un 48. Oh, e come mai? Me ne accorto, adesso sto guardando le spento. E cosa sei fuori domani o in zona? No, domani sono in zona, in fuori sono dopodomani, dai, se riesco a recuperarmi, anzi poi domani no, dopodomani lo chiamo, se riesco a recuperarmi almeno l'altro apparato mio, il barattino mio. Non l'avrò fatto ancora, no? Il mio è pronto già dall'altro giorno. No, il mio non l'avrò fatto ancora. No, non l'ha fatto ancora perché l'ho chiamato ieri io, proprio per il mio, per fare, perché si figli che io martedì sono a Cagliari, se diciamo tramite questo Peppe a farmi avere il mio. E gli ho chiesto di quello lì, ha detto che non l'ha fatto ancora. Non l'ha neanche iniziato, mi ha detto. No, non l'ha neanche iniziato. E mi hai detto che era in lavorazione. Lavorazione, ma la pizza è una cosa, però no, dice, poi questi giorni di festa, e amici, una cosa e l'altra, e da una casa all'altra, e dai succhi, e lì, e già aveva gente a casa, una cosa all'altra, dice non ha fatto nulla. E no, non si è dedicato questi giorni di festa, dai. Che magava, che e così, ma se siamo sentiti ieri, adesso dice, purtroppo, dice, un giorno ci avevo invitati a casa, dice, poi, l'altro giorno era in casa di questi miei cognati, l'altro giorno era tre pareti, una cosa e l'altra, dice, no, e non c'ero a casa, c'ero, ma è che quando c'ero c'avevo gente a casa e non ho fatto nulla adesso questi giorni. Capo, capo, ehi, vabbè, già c'è il tempo. Positivo, dai, positivo. Capo, va bene, anch'io adesso. Positivo, dai, positivo. Provo dopo, ma non so se ci arrivo passo passo, Provo una cosa, ma non so se ci arrivo. Ma ora, a casa? No, provo con un altro apparato piccolo se ci arrivo. Ciao, va bene, ok.